I colori dell'anima, ogni lunedì sera alle 21 su Radio Alma. Buonasera cari amici di Radio Alma, benvenuti sulle frequenze di 101.9. Sono le 21 lunedì sera e vi aspetto una nuova puntata di I colori dell'anima. Apro il microfono alla mia co-presentatrice, qui con me Donatella stasera. Buonasera cari amici. E abbiamo per voi una bella puntata, un bel ospite anche che vi introduciamo fra poco. Di che cosa parliamo stasera, Donatella? Ma sì, io non vorrei anticipare molto, però possiamo dire già ai nostri amici che stasera parleremo di qualcosa, di un tema molto attuale, quello della multiculturalità. Mm-hmm. E quindi stasera I colori dell'anima si tinge del colore dell'arcobaleno. Ecco. E uno non bastava. E allora lasciamo con questa piccola insomma anteprima e vi lasciamo alla prima canzone, che è di un cantante napoletano, e vedremo che il tema Napoli tornerà più tardi in questa puntata, e ascoltiamo insieme Gente di Frontiera. Ecco, abbiamo cominciato questa puntata di stasera con un CD che salta, anche questo succede, questo CD secondo me è stato troppo magari nel CD player vicino al mare, sabbia, non lo so, l'avrei dovuto magari un attimino pulire, scusateci per insomma un inizio un po' burrascoso. E insomma, come aveva detto Donatella prima, la nostra è una società sempre più multiculturale. Ebbene sì, infatti il tema di questa sera è quello della multiculturalità, e parte proprio da questa consapevolezza che la società di oggi è sempre più multiculturale, una comunità nella quale i contatti tra i gruppi etnici si stanno sempre più intensificando, e infatti entrare in contatto con gli altri modi di vivere, di sentire, di rapportarsi alla realtà amplia le nostre prospettive e ci rende capaci di forme di adattamento che in realtà erano sconosciute fino a qualche tempo fa. Il fatto di costituire una società basata sulla ricchezza multietnica potrebbe rappresentare per l'uomo in futuro un importante vantaggio evolutivo, che potrebbe rafforzare la grande capacità che l'uomo ha di far valere le sue parti psichiche e cognitive nel suo gestire il mondo che lo circonda. E la prospettiva multiculturale ci rende capaci proprio di comprendere che siamo tutti membri di un'unica comunità, che dovrebbe quindi evitare i conflitti etnocentrici, ma soprattutto ci rende capaci di agire in funzione della salvaguardia del gruppo umano nella sua generalità. E quindi viene proprio da chiederci, in una società come la nostra, aperta alla multiculturalità, si può parlare di integrazione? Esatto, e per parlare di è una parola difficile, multiculturalità e integrazione, e abbiamo oggi qui un carissimo amico, e vi diamo un gran benvenuto a Momo, che ci ha raggiunto in studio. Buonasera Momo. Buonasera a tutti. E allora non lasciateci, perché Momo ha un sacco di cose da raccontarci. E infatti direi proprio che è il caso di esplorare subito la carta d'identità di Momo. Allora, Momo, sono sicura che non è proprio il tuo vero nome. No, il mio vero nome è Ajud Mohammed. Ecco, il nome appunto... è quello che mi verifica, lo sai, come diciamo sempre i piccoli nomi, Momo, mm-hmm. Già forse è conosciuto nel mondo, tutti quanti dicono Mohammed, adesso Momo sì, è più facile. Più facile. Come Totò, insomma. Come Totò. È così. Quindi abbiamo detto il nome, nato a? È nato 1871 in Algeria. Per dimenticarlo. In Algeria. Sono algerino che... E dove sei nato in Algeria? Sono nato in piccola villa che si chiama Biskra, uh-huh. E si trova nel portiere di deserto dell'Algeria. Ah. La frontiera tra il nord e il sud dell'Algeria, e è una città che si chiama Biskra, che è conosciuta nel mondo che è una cosa che si chiama dattere, mm-hmm. E discerne, ah, buonissime, e arbe di dattere, e questo è conosciuta nel mondo il numero uno. E da quel momento là in Algeria, prima aveva mio padre che lavora navigatore del pesce, mm-hmm. E lavora con gli altri, le navi che fanno pescatori, Italia, Spagna, Marocco, fanno Algeria, fanno Tunisia. Quindi tu eri uno di quei bambini che guardava il porto in attesa porto, del padre. È proprio differente. Vivo nel deserto, però guardo anche il mare. Il mare come pescatori. Ho entrato in un mondo che non lo conosco. Ecco. E poi quel momento là, mio padre che c'ha gli amici italiani che lavorano sempre insieme, che vendono i pesci tutti insieme, e a un certo punto hanno aperto una zona che si chiama Baia Napoli, e hanno aperto un grande usine, diciamo, di pesci che vendono là, i commerci tutti. E mio padre, ho deciso che devi vivere a Napoli. A un certo punto abbiamo vissuto 10 anni, e quel momento là ero piccolo io. E quanti anni avevi, te lo ricordi? Sì, mi ricordo più o meno c'ho 10 anni 11, ecco. 12, sì. E poi abbiamo stato un po' di tempo, poi fatti amici, lo sai, certo. Sono stato un po' di scuola là e lì. Poi a un certo momento mio padre ha detto: adesso basta, entriamo in Algeria. Siamo tornati in Algeria tutti. Poi, così come io ho fatto fino a 18 anni in Algeria, e ho più amici in Italia, a Napoli, che in Algeria, allora è tornato a 92, 90, 91, 2, cominciato a ritornare in 87. Sei di nuovo tornato a Napoli. Ma parliamo un altro po' insomma, del tuo primo arrivo, sì, in Italia. Avevi 10 anni, bambino. Sì. Ti ricordi all'inizio, eri più contento o avevi più paura? Come ci descrivi un po'? Sì, questi anni. Sì, sì, quel momento là, gli anni 80, 81, 82, allora quel momento là che normale, lasci i tuoi paesi, i tuoi amici, quando hai bambini, il quartiere, allora certo. Per trovare un nuovo mondo. Appena arrivato a Napoli, già non voglio stare, già la prima settimana ho detto: oh papà, io non voglio più con te. Allora è normale, perché quando sei bambino c'hai che amici per là, certo, e lì. E allora sono stata un po' dura. Ma già quando eri lì invece nel tuo paese in Algeria, e dicevi ai tuoi amichetti che saresti partito per l'Italia, sì, per, sì, Napoli, sì, per loro la vedevano, come la vedevano? Sì, per loro è una cosa una strana. Dicono: dove vai tu? Ti trovi là, fai nuovi amici, fai là. Allora io ho detto: non lo so, forse. E ci lasci indietro. Lasci indietro, e amici, lo sai. Poi con tempo, questioni d'abitudine, allora meno male ho trovato gli amici a Napoli, a che mia t'hanno età. Accolto bene. Ma tu sapevi un po' che cosa ti sarebbe insomma, che ti aspettava dall'altra parte? Cioè, ti eri fatto un'idea dell'Italia o è venuto strada facendo? Sì, un'idea in Italia, lo sai, quando siamo bambini vediamo troppo film italiani, mafia e queste cose qua, lo sai, Al Capone, tutte cose. Allora pensiamo sempre, c'è tutti qua a Napoli, troviamo subito Al Capone, poi invece... Già ti vedevi piccolo picciotto a Napoli. A parte di questo, poi quando è arrivato là ho trovato un altro modo di vita a Napoli, siccome i popoli napoletani sono aperti, diciamo, la gente napoletana che vivono già gli altri secoli che vivono già con gli extracomunitari, hanno qualcosa di già di loro. Ma anche, valeva anche per i bambini? Cioè erano aperti al tuo arrivo? No, comincio no, è un po' dura, perché non fanno subito con uno straniero, diciamo, perché si chiamano così in Italia, extracomunitari, certo, straniero. Per loro sempre un poco ti lasciavano un po' da papà, insomma, non era facile giocare insieme. No, non gioca subito insieme, allora più stai con mio padre, mia mamma, i miei fratelli. I miei fratelli più grandi non vengono, sono stato io e mia sorella, allora giochiamo sempre voi due. E diciamo che magari è stato un po' andando a scuola piano piano, apprendendo la lingua, che sì, siete riusciti. L'unico primo che è stato straniero in scuola sono io, mio sorella. Ah, quindi proprio sì, sei allora, stato la prima familiare nella scuola. La prima, allora per loro trovano una cosa È strana. Quindi diciamo tutti ti guardavano, avevi gli occhi puntati, te lo ricordi? Pensano loro, quando mi guardano mi credo che c'hanno, c'ho tre occhi, due nasi. Però... tu te la ricordi la sensazione di quella mattina quando sei entrato in classe e tutti ti guardavano magari con gli occhi spalancati? No, appena entrato non voglio entrare già, voglio già tornare. Mm-hmm. Allora... E che cosa c'era di più diverso? Cioè, non so se te lo ricordi, che cosa ti... Cioè, era più estraneo per te, cioè tu eri lo straniero, come hai detto, e venivi da fuori, ma ovviamente erano stranieri, erano stranieri anche loro. Anche loro. E che cosa era la cosa più particolare degli italiani in generale o dei napoletani? Forse perché loro non... infatti i bambini, perché per loro è una cosa strana, perché non sono mai andati con gli altri bambini strani per loro. Sì. O i neri o arabi o qualcosa, per loro qualcosa di nuovo. Sì. Allora per integrare con loro è un poco difficile. Ma anche per te un po' era qualcosa di nuovo, no? Io, hai dovuto tutti queste persone magari poi, vestite diversamente, colori diversi, no? Poi io non so leggere in italiano, niente, allora è normale, una cosa strana per me è... Hai dovuto cambiare, immagino, anche le tue abitudini un po', i ritmi della vita erano diversi, sì, no? Normale. Allora ho cominciato già da fuori, ho cercato giocare già i bambini di fuori, per mettere qualcosa in sicurezza da me, per devi sentire a loro che anche io sono come voi, allora devi giocare insieme per sentire siamo la stessa. Stessa idea che abbiamo, la stessa cosa, capito? Allora loro hanno idea per giocare, anche io ho la stessa cosa, non è loro per esempio giocano con il pallone. Io gioco con i pietre, no. Giochiamo sempre tutti le stesse, poi sono stato duro e poi abbiamo fatto amici piano piano, abbiamo trovato la lingua universale dell'infanzia, insomma. Quella qua, sì. Ecco, e con questa nota partiamo con un'altra canzone che parla di Napoli, di un cantante famosissimo toscano. Sono curiosa, allora chi è? E parla di Caruso, il grande Caruso, che ha età ormai avanzata e si innamora di una giovane e bella fanciulla. E rieccoci in studio, bentornati cari amici, siamo su Radio Alma, questi sono i colori dell'anima e stasera parliamo di multiculturalità con il nostro caro regista Ulan ed un amico molto molto speciale, Momo. Momo il Totò algerino, ecco, sì. Come abbiamo detto prima. Mama già. Mi sembra più adatto. Appunto, questa sera stiamo parlando di multiculturalità. Prima Momo ci ha portato nel mondo della sua infanzia, a cavallo tra gli anni trascorsi in Algeria e quelli trascorsi a Napoli come appunto un bambino, a metà tra appunto l'infanzia e l'adolescenza. Ed è proprio sul tema dei bambini stranieri che può essere interessante citare uno studio di qualche anno fa, che è stato fatto proprio dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si chiama Interculturalità e Integrazione nella Scuola Elementare, il punto di vista del bambino straniero. Infatti dagli studi già effettuati risulta che nonostante le difficoltà e l'inadeguatezza, stasera non ci siamo, con cui appunto... È passato il virus. Sì, ci si continuerà a dover misurare, per l'alunno italiano è in genere positivo il fatto di avere in classe dei compagni stranieri e che ciò rappresenta in teoria un importante valore aggiunto, però spesso appunto non ci si chiede qual è il parere degli alunni stranieri. Esatto, e il ritratto è che sia pure a grandi linee che un bambino che vive principalmente in famiglia ama e ricorda il paese di origine, ne conosce la lingua e vorrebbe ritornarci a vivere, come un po' Momo ci ha descritto prima, che quella è la prima cosa all'arrivo in Italia. Ma allo stesso tempo c'è la voglia di voler continuare a vivere nel nuovo paese, in questo caso ovviamente l'Italia. E infatti prima appunto Momo ci diceva come fosse particolare la cosa che si arriva in una classe da stranievo, però allo stesso tempo anche agli occhi di questo bambino stranievo tutti gli altri risultano essere stranieri. E infatti, come emerge dai dati di questa ricerca, il bambino sarebbe più propenso a sapere cosa i compagni pensino davvero di lui, come vivono quotidianamente nelle loro famiglie, quali sono i loro segreti, appunto raccontare le proprie esperienze. E il bambino straniero, bruscamente inserito in un contesto sconosciuto, riprende il cammino di scoperta della propria e altrui diversità, già intrapreso nel suo paese, ma in base diciamo a parametri di tipo diverso. E questo processo crea in lui un forte conflitto identitario che cerca generalmente di risolvere accentuando il valore dato alla famiglia, alla scuola e all'amicizia, come emerge dalle priorità da lui espresse di fronte alla richiesta di indicare tra le cose che ritiene più importanti nella vita, questo appunto a fronte del questionario che è stato fatto dal Ministero. E la famiglia, la scuola e l'amicizia, se da un lato sembrano circoscrivere il mondo del bambino, dall'altro si pongono come segnali rivelatori dei punti di riferimento da lui utilizzati nel processo di appesamento, bella parola questa, di interazione e integrazione tra sé, gli altri e dei contesti che si intersecano nella sua vita. E sì, direi che generalmente, come poi emerge anche da questa inchiesta, una volta terminata la scuola il bambino si trova di fronte a due strade, quella appunto di... O il giovane adulto, insomma. Sì. Quella di appunto di rimanere nella nuova terra, appunto in questo caso in Italia, oppure di ripreparare le valigie e tornare nella terra di origine. Momo, tu in questo senso sei un caso abbastanza eccezionale, giusto? Perché tu hai preparato le valigie. Preparato già, sì. Ma sei partito per un terzo paese. Sì. Il Belgio, appunto. In Belgio, a Bruxelles, dopo 15 anni vive a Napoli. Quindi praticamente che anni avevi, avevi quando sei venuto qui? Quando sono venuto qua avevo, quando... diciamo 29 anni. Quindi praticamente tu hai trascorso, si può dire, la tua infanzia in Algeria, un po' dell'infanzia e tutta l'adolescenza a Napoli. Quando tornato in Algeria, quando è tornato dall'Algeria, avevo 18 anni, 19 anni, tornato in Italia. Quindi la patente l'hai presa a Napoli? Sì, a Napoli. La patente c'ho a Napoli. Quello va scritto, sì, che la patente è stata presa a Napoli, perché fa la differenza. A Napoli, anche la moto. Soprattutto la moto, la Vespa. Quello va scritto in annotazioni particolari. Davvero. E là, poi dopo sono stato là, lavorato lì dalle pizzeria, ho scelto un mestiere di pizzaiolo. Quindi sei diventato proprio un napoletano doc in quel senso. Sì. Quando lo giorno che ho imparato a fare le pizze, e il mio primo lavoro, ho lavorato in un Lido che si chiama Lido Schiavoni a Napoli, che si trova verso di fronte Procida, Ischia, che è una zona che si chiama Monte di Procida. Un posto fantastico. Sì, è bellissimo. E là lavoravo all'estate nella spiaggia e faccio il pizzaiolo. E là, quando i napoletani dicono "Wow!" e chiamano fra di loro, venite qua, che è successo? L'altro gli dicono i ragazzi, che è successo? È un arabo fa le pizze a Napoli, è una cosa incredibile, è normale, dicono "Wow, è arabo fa le pizze a Napoli", e qualcosa non ci si crede, quello è veramente. Allora i ragazzi napoletani che fanno? Comprano le pizze, anche loro non hanno voglia di mangiare la pizza. Ma comunque devono provare. Comprare, vogliono vedere com'è la pizza l'arabo lo fa a Napoli. Quindi questa è stata sicuramente una grande occasione per te anche di farti accettare, no? Dagli amici napoletani. Dopo con gli anni ho fatto un sacco di amici e amiche, la gente, sai, e quel zona là ho conosciuto anche là. E sei diventato per loro il pizzaiolo algerino. Sì, per loro, grande pizzeria. Quando parlano, il patrone si chiama Giovanni, e quando lo dicano: Giovanni, c'hai una pizzaiolo arabo, però fai pizza buona, come come hai fatto, come sei imparato? Fantastico. Allora, è questa. Ma quindi io mi chiedo, lavorando poi in un posto così bello, in un ambiente così ospitale probabilmente, che cosa ti ha portato a decidere di fare le valigie e partire per Bruxelles? Sì, quel momento, perché a Napoli c'è lavoro, lavori, non è il fatto che non c'è lavoro. Quando c'è il mestiere, anche il lavoro c'è. E si vive bene. Si vive bene. Quando c'è il lavoro, il mestiere, è importante il mestiere. Quando c'è il mestiere in mano, il lavoro, c'è sempre il lavoro. E però solo che a Napoli si pagano poco. Puoi vivere, mangi bene, ti diverti, però non vai mai avanti. Perché le condizioni sono un po' precarie, diciamo. Sì, questo rimani, sei tu. Punto debole. Punto debole e non vai mai avanti. E come io avevo mio fratello che è partito prima che da me qua, che abita ti ha 90... fatto strada. Mi ha fatto strada. È venuto a vederlo, mi ha invitato al 98. Vieni a vedermi qua. Allora è venuto qua a Bruxelles. Sei venuto in un giorno di sole. Sì, soprattutto sì. Ma quando vengo là a Napoli, per qua porto sempre il sole da me, con me, con le valigie. Allora sono stato 2 settimane, perché quel giorno là che devi andremo in Algeria insieme. Abbiamo comprato una macchina qua, abbiamo visto le cose qua e abbiamo entrato per la strada da qua fino a Napoli. E poi da Napoli giù in Sicilia la nave fino a Palermo, a Trapani, e da Trapani siamo andati a Tunisia. Mamma, poi da Tunisia abbiamo fatto ancora in grande la strada fino a casa. E in quel momento là io ho piaciuto, quando ho arrivato qua, appena arrivato a Bruxelles, ma ho visto che la gente un'altra mentalità, un altro mondo, anche un'altra multiculturalità, sì, multiculturalità, no? E qua è il mondo davanti a te, tutte le nazionalità vicine a te. Allora ho visto, guardi, la prima volta che vengo in Europa, soprattutto a Bruxelles, ho detto wow. E ti sei sentito uno dei tanti, non ti sei sentito appunto l'arabo, diciamo, l'emigrato. Sì. Ho sentito già un persona quel momento, perché vedi tutti. La prima cosa, mio fratello prima abitava a Scarbeck, dove proprio il quartiere Rue de Brabant, dove tutte le nazionalità del mondo che vivono là. Allora appena arrivato là non ho capito niente. Sono stato quasi un'ora aperto la bocca così, wow. Italiani, non spagnoli, arabi, i neri, i brasiliani, tutti nella solidarietà, tutti nella solidarietà. E wow. Tutti nella stessa strada. Tutti nella stessa strada, cercano lavoro e lavorano, vivono bene. Ristorante, tutti i ristoranti mischiato. Tutti, non c'è uno che dica l'altro no, non vado da quello, o l'altro che dice no. Tutti lavorano convivono insieme. E là ho capito il mondo vicino a me. Siccome il mondo vicino a te, se c'è voglia parlare con uno che viene dal Perù, parli, perché sta là. Uno che viene da Cina, non lo so, da qualche, sta là vicino a te. Allora il mondo. Allora quel momento mi ha tirato molto a Bruxelles. E un ritorno a Napoli, quel momento là, non mi tira più. Perché c'è qualcosa mi tirata da Bruxelles. Sì. Questo, quell'aspetto multiculturale che insomma a Napoli. Sì. È Napoli per me è la più bella città del mondo. Per me è bellissima. È bellissima. C'è qualcosa di charme, di cultura. Qualcosa è bellissima. Però un'altra parte non c'è. A Bruxelles forse ci si sentiva meno soli anche, no? Nel senso che appunto sentirsi partecipi di questo mondo, vedere tutte queste culture diverse intorno, fa sentire anche come se tu sei parte di qualcosa, forse. Ti senti che ti esisti, sei tu, sei qua. Ho capito, tu capire chi sei tu proprio vicino qua. E ovviamente una cosa è la multiculturalità e l'altra è l'integrazione. Ovviamente hai trovato qui un ambiente molto multiculturale, ma a proposito dell'integrazione, del vivere insieme di queste diverse nazionalità, l'hai vissuto, l'hai visto anche diverso da Napoli, o comunque diciamo che gli stranieri che vengono da diverse parti del mondo continuano a vivere, diciamo, nel loro piccolo mondo, o c'è un grado di integrazione più alto rispetto a Napoli? Infatti qua a Bruxelles c'è una cosa: a Bruxelles la gente, per esempio, c'è molto in nazionalità, sì, loro che vogliono questo. Nazionalità, qua a Bruxelles puoi vivere tutti insieme, perché l'ho visto, tutti vivono insieme bene, però ci stanno extracomunitari che loro vogliono così, vogliono rimanere al loro mondo da soli, non loro che non vogliono integrare con gli altri. E questo è il loro problema, perché queste, per esempio, ci stanno qua, c'è molto italiani, ci sono italiani che vivono con gli altri, ci sono italiani no, che rimangono isolati fra di loro. Quando esce la mattina vado da siciliano, o vai da napoletano, non va da un altro. E poi c'è anche un altro, marocchini per esempio, anche loro. Ci sono i marocchini che dicono non compro un baguette da italiano, no, compro da marocchino, perché loro che vogliono così. Sì. E diciamo che in questo è magari a Napoli è più facile integrare, perché alla fine puoi integrarti proprio nel modo di vivere napoletano e farne parte, e invece qui è più difficile, perché magari i gruppi stranieri sono molto più grandi e si possono creare delle piccole isole o... E qua a Bruxelles, sì, qua a Bruxelles loro già il sistema che funziona a Bruxelles, loro, diciamo, per esempio i marocchini, soprattutto perché entra sempre le regioni dentro, perché ci sono i brasiliani che si tengono fra di loro, perché perciò trovi qua e la gente, sono molta gente che hanno 10 anni qua e non parla ancora francese né flamano. Parla solo la sua lingua, perché non vuole integrare che gli altri rimangono chiusi nel gruppo. La mattina si sveglia, parla brasile o parla arabo fino alla sera, domani, e qua gli anni passano e rimangono sempre chiusi nella loro comunità. A Napoli no, a Napoli è un'altra cosa. A Napoli, che siccome i stranieri, già è dura per loro per essere accettato a Napoli. Certo. È molto dura. Ecco, e dopo la canzone che ascolteremo, torneremo a parlare di quando, diciamo, i diversi mondi si incontrano, e noi, Donatella, lo sappiamo bene che c'è anche un posto qui vicino allo studio a Saint-Gilles dove le diverse culture si incontrano ben volentieri, ma ne parliamo dopo la prossima canzone. Vinicio Capossela, Scivola vai via, una canzone che a me particolarmente piace, molto, con una poesia molto bella anche introdurla, per questo insomma una versione un po' più lunga e completa per questa puntata speciale che parla di multiculturalità. Ecco, è un'altra volta che non riesco a dirla, veramente. Proprio devo praticare se un po' i nostri cari amici ci volessero pagare un corso di dizione, esatto. Ben venga. Ecco, e il secondo elemento di cui stavamo parlando è appunto l'integrazione. Lo facciamo insieme a Momo, che è dall'Algeria, passata a Napoli, poi da Napoli indietro in Algeria, poi Napoli, Bruxelles, e infine Bruxelles, e appunto è qui con noi in studio. Eh sì, infatti diciamo che Momo non è l'unico ad essere approdato a Bruxelles, perché stando agli ultimi dati Bruxelles conta circa 1 milione di abitanti, 1.048.000 per l'esattezza, di cui circa 300.000 sono stranieri. E guardandoci invece un pochino più intorno, qui nel quartiere di Saint-Gilles, ci rendiamo conto che nella popolazione appunto del quartiere circa il 13% viene dal Mediterraneo, quindi dal Maghreb, circa il 5% viene da altre zone in Africa, e circa il 3% di origine asiatica, e un 6% che viene dall'America Latina, quindi comunque direi che ce n'è un po' per tutti i gusti. Ecco, e tutte queste persone spesso e volentieri si ritrovano anche qua in zona, e l'abbiamo detto prima, Momo è un pizzaiolo di fama, diciamo lo era a Napoli, ma l'è molto di più anche qui a Bruxelles, e diciamo che tu vedi tutti i giorni persone che vengono da tutto il mondo. Raccontaci un po' degli incontri che avvengono nel tuo ristorante, le persone che si incontrano, diverse culture, paesi, storie. Come un'unica pizza, in realtà, intorno a un tavolo può portare persone di tante nazionalità diverse, no? Sì, sì. Allora, sì, sanno molti. Quando apro vengono là, perché tutti quando vedono la pizzeria Posto al Sole, che si chiama, mm-hmm. Tipicamente napoletano, dai. Napoletana. Comunque io questo nome non sono io che ho dato questo mio nome di mia pizzeria, no. Sì, no. Perché io, il giorno che comincio per aprirla, sto pensando al nome che do questa pizzeria il nome. E pioveva, immagino. E no, quel scherzo. Momento là, no. Quel momento là c'è un'idea che c'è un amico che si chiama Federico, che è a Napoli. Allora mi ha mandato un messaggio: come li chiamo la mia pizzeria? E lui mi disse: un posto al sole. Ma fantastico! Quindi dobbiamo dire grazie a Federico. Grazie a Federico, grazie a lui. Allora ho detto: senti, io allora tu un posto al sole, e io faccio posto al sole. Un ecco. Solo posto. Posto al sole, sì, che c'è sempre i posti. Bravo, c'è posto per tutti. Per tutti, non c'è uno solo, c'è molti. E allora la gente, quando vengono là in pizzeria, dicono: ah, pizzeria, pizza, andiamo a mangiare pizza dagli italiani. Mm. E allora quando arrivano là, vedono una faccia non è italiana. Ecco. Amica, siamo qua, siamo dagli arabi o dagli italiani, non ho capito. Allora la prima cosa loro dicono: va bene, proviamo sempre la pizza. E come io già da me ho conosciuto la pizza al mezzo metro, faccio al mezzo metro, l'unico qua a Bruxelles, e allora i ragazzi escono, si danno, provano: senti, proviamo mezzi metri come fanno. Allora, quando io lo faccio le pizze a mezzi metri, belli, con la rucola, uh-huh. E la prosciutto di Parma, la bufala, già è conosciuta a Napoli, che è Sorrento, Salerno, credo. Allora, loro... Forse non è proprio solo arabo. Ecco, forse questo... Ma poi non sono solo italiani, immagino, che vengano. Cioè sì, non... tutti nazionalità vengono da me, ci sono i belgi, e olandese, italiani già un sacco, e vengono i brasiliani, vengono arabi, marocchini, vengono i spagnoli, portoghesi, e vengono tutte le nazionalità che esiste, perché qua i francesi, soprattutto i francesi, anche i francesi sanno molti qua, ecco, a San Gil, e gli piace la pizza, sì, ecco. Sì, e piacciono molto le pizze ai francesi. Allora, e là, quando arrivano là, mangiano i pizza e dicono: forse non è arabo, forse c'è qualcosa da lui italiano. Allora loro praticamente domandano: da dove vieni d'Italia? Io gli dico: io vengo da Napoli, però sono algerino. Adesso abbiamo capito. E come fai? Allora mi racconto tutta la storia, così li mettere questa gente in sicurezza, che vengono da Napoli, Napoli, e vengono da grande scuola di Napoli di pizza, ecco. È conosciuta nel mondo. E là racconto come io ho imparato a fare le pizza nei grandi pizzerie del mondo, da presidente, che 2 anni, mi spiace per lui, che 2 anni fa che è morto, e da Michele, che lavoravo da loro, ho fatto un mese gratis, che ho imparato solo a fare le pizza. Uh-huh. Anche quello è tipico, sì, il cosiddetto lavorare a gratis. Quella appena di grandi, quello dicono: benvenuto da noi, però ti insegniamo il mestiere. L'hanno insegnato bene, bisogna dirlo. Okay. E la gente quando trova, e meno male adesso quando provano le pizze a Napoli, la gente, piacciono la pizza, dicono: Questa è una pizza vera napoletana. Ecco. L'unico a Bruxelles che fa la pizza napoletana è in arabo anche. Ecco. E insomma, allora, tu sei un algerino che esporti, diciamo, al meglio un prodotto tipicamente italiano, napoletano, di cui tu vai orgoglioso, insomma. Sì, orgoglioso. La pizza napoletana sei tu. Ecco, sì. Te la senti tu anche. Sì, io sento anche dentro a me, mi sento, sono algerino, però mi sento anche, sono napoletano. Esatto. E poi presento Napoli per bene. Certo, presento certo. Anche Napoli per bene, perché anche il forno che abbiamo fatto da me, forno a legno, e io questo forno a legno, c'ho un grande amico mio napoletano che si chiama Luigi. Quando l'ho chiamato, Luigi, io voglio fare il forno a legno qua, non voglio farlo al forno elettrico, io voglio fare la pizza napoletana, presento Napoli, non voglio presentare Napoli in metà. Allora loro dicono, ma Luigi mi disse, io lavoro adesso, però per te lascio il mio lavoro, vengo, faccio il forno da te. E l'avete fatto insieme, giusto? E abbiamo fatto, visto insieme le foto. Sì. E lui, e c'ho anche le foto nel muro, tutta la gente guardano. E lui è venuto da Napoli per me, e lasciato anche il suo lavoro, è venuto qua, e fatto mio il forno, abbiamo fatto insieme, e lui conosce le misure, tutti, abbiamo fatto il forno napoletano. Come si deve, ecco, come si che deve. Bello. Come allora, si deve. Diciamo un piccolo pezzo di Napoli al cuore di Bruxelles, al cuore di Saint Gilles, proprio sì. una proprio cosa anche bella. Integrazione europea. Esatto, diciamo. È proprio un bellissimo esempio, credo. E infatti io mi chiedevo, è all'interno appunto di questo progetto quasi di integrazione qui a Saint Gilles, così possiamo dire. Io so che tu organizzi anche spesso dei piccoli atelier per bambini, dove appunto porti bambini di nazionalità diverse, ce ne vuoi parlare un pochino? Sì, sì, infatti questa è la prima volta, 3 anni fa, allora io faccio le pizze e poi ci stanno molti clienti che vengono con loro i bambini da me. E poi è venuta un'idea, ho detto, perché anche i bambini quando vengono là, ogni volta vengono, appena vengono a mangiare la pizza, vanno direttamente vicino a me quando preparo la pizza. E certo. E loro piacciono, perché se c'ho il fuoco, come faccio il spettacolo un poco, allora i bambini piacciono. Ho detto, perché no? È venuta questa idea. Anche questi bambini hanno diritto che dai qualcosa che non hanno mai fatto questa a Bruxelles. Sì. Io penso che cioè nessuno, la pizza non viene direttamente dal congelatore, ma sì. Viene fatta come un'esperienza comune. Comune. Allora ho detto, perché anche i bambini hanno diritto, e anche i miei clienti normali, che fedeli, che vengono, si svegliano, mi pensano a me, che mi chiamano, pronto, momo, voglio una pizza. Allora lui mi pensa, certo. Lui mi pensa. Sicuramente questo io credo che sia un esempio veramente di integrazione nella vita di tutti i giovani, dove ci si prova sempre a sentire vicini anche nelle cose più semplici, appunto come quella di fare una pizza, e credo appunto che un progetto anche come questo, appunto di portare bambini diversi intorno alla farina e all'alba, degli elementi semplicissimi, possa far sentire tutti più vicini e anche un pochino più uguali. È vero. E rieccoci in studio, quest'ora con i nostri amici di Radio Alma è passata veramente in fretta questa sera, ascoltando le bellissime storie di Momo. E prima di passare ai saluti, penso che Roland ci voglia dare qualche notizia. Sì, una piccola notizia a proposito anche magari del tema dell'immigrazione, o comunque del partire dalla propria terra e stabilirsi in un nuovo paese. Cioè il giovedì 7 aprile c'è una conferenza al Parc Comunale de Bois d'Or, spero che lo pronuncio bene. Secondo me è Baudour. Baudour, ecco, merci ma chérie. Alle 18, il 7 aprile, sul tema Mémoire entre le bleu et le gris di Yvonne Simeone. Insomma, Yvonne Simeone presenta un libro, lei che è figlia di un minatore italiano, e lei racconta la sua infanzia in un libro illustrato di fotografie di famiglia. Infatti, dopo la guerra, in seguito all'accordo italo-belga del 1946, nelle città miniere tutte le nazionalità si confondevano. E questo libro appunto è un dovere di memorie e l'autrice fa passare un messaggio di tolleranza, dialogo e solidarietà, valori essenziali che appunto portano alla pace, valori importanti che oggi bisogna ricordare più che mai. Ecco, e veloce veloce vi ricordiamo anche che così vi preparate che dal sabato 9 aprile al sabato 30 aprile c'è il ciclo Mario Monicelli. Eh sì, infatti Cinematech presenta un ciclo dedicato a Mario Monicelli, che è deceduto proprio lo scorso autunno, e la Cinematech rende omaggio a questo grande artista attraverso una rassegna delle sue opere cinematografiche, quelle maggiormente significative. Per più informazioni andate su cinematech.be. Parlando di siti internet, indirizzi email eccetera, vi ricordo radioalma.blogspot.com per sentire le nostre puntate, le altre puntate in italiano in differita, e la nostra email colori.anima@gmail.com se ci volete scrivere, ovviamente ben volentieri. E vedo che sono le 21:59, allora purtroppo è passato veramente troppo in fretta, ci avrebbe fatto davvero molto piacere stare qui ancora a parlare con voi. Direi che per concludere non possiamo fare a meno che ringraziare Momo. Grazie, ci ha fatto veramente molto piacere stare con te.